Ciao, amica mia. Se non mi sentissi banale, direi amore mio. Comunque lo penso. Ho desiderio di te, dei tuoi baci, delle tue carezze, del tuo corpo. Pensa, cara, com'è dura la vita in carcere. Gli uomini di tutte le età non affrontano l'argomento sesso. Mai qualcuno in Italia ha fatto battaglie per vedere riconosciuto il diritto ad esercitare la propria virilità o femminilità. Si parla di sport e cucina, perché sono innocui. Non ledono il pensiero. Siamo veramente un popolo bigotto che preferisce nascondersi dietro la masturbazione piuttosto che affrontare un argomento considerato non perbenista. Così finiamo tutti per tornare ragazzini, quando la voglia era tanta e ci sbattevamo come si poteva, e come bambini continueremo ad essere trattati, facendoci dire cosa è giusto e cosa sbagliato senza farcelo capire, ma imponendo qualcosa con la forza del più forte e quindi inculcando il senso che chi è più duro vince. Strano modo di rieducare, vero? Ti sognerò questa notte, che ridiamo immersi in quel senso di beatitudine che solo il sesso e l'amore congiuntamente sanno regalare. Un bacio e qualcosa di più. Augusto.